Volevamo ripartire e riparlare un po' di questa legge, infatti, che diceva la compagnia di Bologna, ma anche che avevamo dato nel un GR qualche settimana fa. E questa cosa è partita dal presidente dell'università di una città di California, che comunque davanti ai numerosi casi di studentesse stuprate e vittime di violenze o vittime di violenze sessuali meno pesante dopo nei bar, dopo le serate serate con alcol, ma soprattutto con queste droghe dette adesso di stupro, chiede allo Stato della California di adottare una nuova legge in cui la cosa interessante non è che noi abbiamo l'abitudine di parlare sempre del no che significa no, e questa legge invece dice sì significa sì. Sì, sì, ribalta un po' il paradigma che si è sempre usato e probabilmente, insomma, non lo trovo neanche troppo sbagliato. Quello che su un punto su cui ci si fa interrogare è proprio questo, cioè il silenzio, la mancanza di risposta. Che cos'è? È un sì o un no? Se una donna in un momento per qualsiasi motivo non è in grado di dare una risposta cosciente per una malattia, perché è ubriaca o perché è in una situazione emotivamente molto turbata, è evidente, insomma, che non è in grado di dare il suo assenso. Quindi più che cercare un no, che è quello che cercano molto spesso gli avvocati all'interno dei processi per stupro, no? Cercano sempre di definire quanto la donna si sia difesa, fino a che punto abbia detto no. Qua si ribalta un po' il paradigma e quindi bisogna cercare l'assenso. Certo, insomma, sapete quali sono le nostre idee rispetto sia alle leggi, alla polizia, al modo in cui ci può tutelare, insomma, è nullo. Però è anche vero che moltissime ragazze sono stuprate all'interno dei college, e vero è che la cosa viene riportata come responsabilità al rettore, che la maggior parte delle volte non interviene, non fa nulla, e quindi, insomma, anche lasciare una situazione così completamente scoperta non andava bene. Al di là della legge è anche una cosa molto pratica. Io mi ricordo dello spot che avevamo fatto: no significa no, forze significa no, c'ho mal di testa significa no. Infatti anche, cioè, a livello pratico il sì significa sì, e dunque si va a cercare il sì prima del rapporto sessuale e si va a controllare questa cosa là. Ma un sì ubriaco o un sì sotto droghe non conta. Cioè, questa si devono mettere in testa queste cose là, i maschi, che un sì, un mezzo sì o un sì in uno stato alterato, sì, non significa sì.